Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La febbre è scesa in ambito lungo e spero che faccia le scale, che scenda le scale, perché quello è uno dei momenti più attesi. Anche se bisogna dire, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito cosa ha detto Conti a proposito della sua compagna di conduzione Maria De Filippi, scesa la febbre, in realtà pare che abbia ancora 38, spero che scenda le scale, anche se sembra che lei abbia già confermato che non le scenderà, perché con i tacchi insomma non si sente particolarmente a suo agio. Queste sono, diciamo, le frivolezze di Sanremo, che però aiutano anche insomma a fare un po' di spettacolo, un po' di leggerezza. Di questo parleremo, ci collegheremo, vedo già un po' di lavoro dietro le quinte, c'è Gigi D'Alessio e Masini con una barba inedita e con degli occhialoni neri, poi insomma ci collegheremo direttamente con Sanremo e parleremo naturalmente anche di cose più impegnative. Ci collegheremo con gli Stati Uniti perché è attesa la sentenza della Corte d'Appello che deve valutare se è costituzionale o meno la decisione del presidente Trump, appunto, sul bando all'ingresso di immigrati di 7 paesi musulmani. Quindi attesa questa sentenza. Poi ci collegheremo anche con la Francia, perché l'avete visto forse in alto su tutti i media questa notizia di un ragazzo di colore che nei giorni scorsi è stato picchiato violentemente dalla polizia durante un controllo e anche violentato, e quindi ci sono le banlieue, le periferie francesi, parigine, che sono in fiamme, come si dice. Parleremo anche dello stadio di Roma, della partita di questa sera di Serie A. Per le vostre interazioni, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349 238 6666. Prima di approfondire i vari argomenti, come sempre vi racconto in sintesi la giornata. Allarme spread, il ministro Padoan sottolinea: la nostra priorità è il taglio del debito. Stati Uniti, alta tensione con l'Iran, l'ayatollah Khamenei attacca Trump e dice: questo è il vero volto degli Stati Uniti. Intanto si attende la decisione della Corte d'Appello sul bando contro gli immigrati musulmani. Siria, la denuncia di Amnesty International, migliaia di impiccati nel carcere mattatoio di Assad. Stasera ci sarà il portavoce di Amnesty Italia a Effetto Notte. Francia, periferie parigine in fiamme per il giovane pestato e violentato dai poliziotti. Medio Oriente, ONU e Unione Europea condannano la decisione di Israele di regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi, parlando di una legge in violazione del diritto internazionale. La svolta del Marocco: chi vuole uscire dall'Islam non rischia la condanna a morte. Il Consiglio Superiore degli Ulema apre alla possibilità di conversione ad altre religioni. Russia: Putin depenalizza le violenze domestiche. Il presidente russo ha firmato la legge che declassa i maltrattamenti in famiglia. Roma: nell'inchiesta sulle nomine fatte da Virginia Raggi, indagato anche Salvatore Romeo. Nella delibera per la sua nomina, lo stipendio non viene indicato esplicitamente. Questo il presunto abuso contestato a Raggi e Romeo. Sanremo al via al festival. Maria De Filippi ancora febbricitante, ma c'è. Tra gli ospiti di stasera, Tiziano Ferro con un omaggio a Tenco. E per il calcio, vertice sullo stadio della Roma. Per il Campidoglio è stato un incontro costruttivo, e per la Serie A in campo i giallorossi contro la Fiorentina. Sentiamo subito una Paola Turci che parla dietro le quinte. Che cosa dice a Sanremo? Niente, passato subito ad Albano, vecchia guarda, dato per possibile vincitore lui o la Mannoia. Adesso partiamo dalle cose, diciamo, più serie, dall'allarme sullo spread, il differenziale, cioè di rendimento tra BTP italiani e Bund tedeschi, che continua a preoccupare, con l'allerta del ministro Padoan sul debito. Dopo la fiammata di ieri, lo spread tra BTP decennali e Bund tedeschi rallenta la corsa e torna sotto la soglia dei 200 punti base, un picco che non toccava da 3 anni. Un'impennata letta dal ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, come un richiamo a non abbassare la guardia e a tagliare l'alto debito pubblico. La riduzione del debito pubblico è un obiettivo centrale della strategia del governo. Le vicende di questi giorni, di queste ore, ci ricordano in modo sgarbato come un paese ad alto debito non possa permettersi di non continuare a operare per la sua discesa. L'economia italiana, intanto, secondo l'Istat, è in miglioramento. L'Istituto di Statistica prevede che l'attività economica proseguirà a crescere all'attuale ritmo e nei prossimi mesi andrà anche meglio. Si rafforza infatti la ripresa del settore manifatturiero, a cui si associano il miglioramento del potere di acquisto delle famiglie e l'incremento degli investimenti. Previsioni considerate però troppo ottimistiche da Federconsumatori e Adusbef. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi gli Stati Uniti: si mantiene alta la tensione con l'Iran dopo che Trump lo ha definito lo stato terrorista numero uno. L'ayatollah Khamenei l'autorità religiosa dell'Iran attacca Trump e dice: ringraziamo il presidente americano che ci ha confermato che questo è il vero volto degli Stati Uniti. Intanto, come vi dicevo, si attende negli Stati Uniti la decisione della Corte d'Appello sul bando contro gli immigrati musulmani voluto da Trump, e poi tra poco ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. E poi in Siria si torna a parlare delle atrocità subite in Siria dai civili in 6 anni di guerra, a riportare la terribile situazione del paese sotto i riflettori, Amnesty International, che denuncia che nel carcere di Sayed Anaya il regime di Damasco ha impiccato circa 13.000 persone in 5 anni. Ce lo racconterà più tardi qui Effetto Notte Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty Italia. E dalla Siria alla Francia, periferie parigine in fiamme per protesta contro 4 poliziotti che, dopo aver fermato un giovane giovedì, un giovane nero, Theo, lo hanno pestato e sodomizzato con un manganello. Appello alla calma da parte del ragazzo, di Theo, dall'ospedale, che dice non fate la guerra nelle banlieue. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Ciao Marco. Buonasera. Sembra che entri anche un po' nella campagna elettorale questa vicenda, perché c'è Hollande che è andato a trovarlo in ospedale, Marine Le Pen che poco fa ha detto: io sto con i poliziotti e condanno queste battaglie nelle periferie parigine. Beh, è evidente che a 2 mesi e mezzo dal voto per le presidenziali qualunque episodio di una certa gravità assume anche una dimensione politica. Io francamente non esagererei, non getterei della benzina sul fuoco. Mi sembra che l'intervento del presidente Hollande, che è andato in ospedale a trovare il ragazzo, gli appelli alla calma dello stesso giovane che ha invitato appunto a non commettere violenze, ha ribadito la fiducia nella giustizia, insomma mi sembra che tutto vada un pochino nella direzione di un possibile ritorno alla calma. Comunque niente a che vedere con quello che era accaduto nel 2005 con la famosa rivolta delle banlieue. La situazione era molto diversa, sia per la gravità del fatto che aveva originato le violenze di allora, la rivolta di allora, sia perché appunto era un contesto politico molto diverso, c'era Sarkozy al ministero dell'interno, c'era una situazione di tensione molto più alta, anche se non c'è dubbio che sia un brutto fattaccio questo. Sì, no? è un brutto fattaccio in un momento in cui sicuramente il paese è alle prese con una campagna elettorale confusa e incerta, il terrorismo ha alimentato la divisione tra le comunità, la disoccupazione nei ghetti maghrebini e non è mai stata così alta, quindi è chiaro che sono degli elementi di tensione, siamo degli elementi di fondo molto preoccupanti. Mi sembra però francamente che non siamo in presenza di un allargamento della protesta ad altre periferie, quindi non si possa parlare francamente di rivolta delle periferie in Francia. Meno male, grazie. Allora Marco Mussanè da Parigi. Ciao Marco. E da Parigi andiamo in Medio Oriente, perché ONU e Unione Europea condannano la decisione di Israele di regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi, parlando ONU e Unione Europea di una legge in violazione del diritto internazionale. Questo disegno di legge è una violazione e avrà conseguenze legali di vasta portata per Israele, ha detto il portavoce dell'ONU Jarik, parlando della legge israeliana appunto sulla regolarizzazione degli insediamenti, e spiegando che il segretario generale dell'ONU Guterres insiste sulla necessità di evitare qualsiasi azione che possa far deragliare la soluzione dei due stati, e ricorda che le questioni fondamentali dovrebbero essere risolte tra le parti attraverso negoziati diretti. La svolta del Marocco adesso. In Marocco, chi vuole uscire dall'Islam non rischia la condanna a morte, tenendo conto che secondo le regole in vigore in tutti i paesi musulmani l'apostasia è condannata con la morte. Il Consiglio Superiore degli Ulema, che è la massima autorità religiosa del paese del Marocco, apre quindi alla possibilità di conversione ad altre religioni, ne dà notizia al sito Marocco World News. E da un paese che considereremmo magari, insomma, per certi versi chiuso o oscurantista, alla Russia, che però ha questa svolta, il Marocco, la Russia, dove il presidente russo Putin ha firmato la controversa legge per depenalizzare i maltrattamenti in famiglia, declassandoli a illecito amministrativo. La legge, aspramente criticata dagli attivisti per la difesa dei diritti umani, prevede che le violenze in famiglia costituiscano reato solo se chi le ha commesse è già stato condannato per lo stesso motivo o se le percosse hanno provocato gravi danni fisici. Teniamo conto, ne abbiamo parlato giorni fa, che solo l'anno scorso in Russia sono state uccise 14.000 donne. Poi invece adesso torniamo in Italia, Roma, passi in avanti sul futuro stadio dei giallorossi, al via ci sono stati alcuni tavoli tecnici già oggi per studiare la questione e il Campidoglio parla di un incontro costruttivo, quello tenuto tra il vice sindaco e i vertici della Roma, poi ne torneremo a parlare di questo. A proposito invece dell'inchiesta sulle nomine fatte da Virginia Raggi, ora indagato anche Salvatore Romeo, ex capo della sua segreteria, di cui si è parlato in questi giorni, sia per la sua nomina con uno stipendio quasi triplicato, sia per la vicenda delle polizze, vi ricordate? Per quanto riguarda comunque le indagini che lo coinvolgono con la sindaca, si apprende che nella delibera per la sua nomina lo stipendio non era stato indicato esplicitamente e questo sostanzierebbe il presunto abuso contestato sia a Raggi che a Romeo. Parliamo anche di una notizia particolare, un contraccettivo maschile, se ne parla da anni di questo, un nuovo contraccettivo che è stato sperimentato con successo sulle scimmie, si tratta di un gel non tossico e non farmacologico che agisce formando una barriera meccanica al passaggio degli spermatozoi. Il risultato di questo contraccettivo maschile pubblicato sulla rivista Basic and Clinical Andrology si deve ai ricercatori del California National Primate Research Center. Il gel viene iniettato con una siringa nei condotti che trasportano lo sperma dal testicolo all'uretra e in questo modo blocca il passaggio degli spermatozoi. Secondo gli esperti, questo metodo di contraccezione potrebbe essere un giorno una valida alternativa alla vasectomia. E poi c'è Sanremo, al via il Festival Maria De Filippi, ancora febbricitante, ma c'è tra gli ospiti di stasera molto atteso Tiziano Ferro con un omaggio a Tenco, 50 anni dalla morte di Tenco, ci collegheremo dopo. Per il calcio, prima del calcio giocato, anche questa notizia, dopo la procura di Torino e quella della Federcalcio, il caso delle infiltrazioni dell'Ndrangheta nella curva della Juventus è arrivato sul tavolo dell'antimafia. Indagare nella zona grigia tra club e curva. Con questo intento Marco Di Lello, presidente del comitato Mafia e Sport della Commissione Antimafia, ha ascoltato i PM della Procura torinese. Al centro delle indagini un presunto accordo Juve-Ultras per assicurare la quiete allo stadio e per il bagarinaggio. Allo stato dei fatti la Juventus risulterebbe totalmente all'oscuro di eventuali connessioni tra mafia e curva. Nessun reato penale quindi, ma possibile ammenda da parte della giustizia sportiva che impedisce contatti diretti tra club e tifosi nella gestione del ticketing. Ad oggi nessun tesserato bianconero risulta indagato, mentre la società sta collaborando con gli inquirenti, perché il caso non è chiuso. Anzi, si è visto anche domenica sera allo stadium durante il match con l'Inter. Un pezzo di curva della Juve era vuoto, il gruppo dei Viking in sciopero per uno striscione vietato, che alludeva proprio alle infiltrazioni del business mafioso nel bagarinaggio. Senza dimenticare che diversi indagati nell'inchiesta Alto Piemonte, di cui il caso Juventus è una costola, vantano nelle intercettazioni contatti diretti con calciatori, dirigenti e lo stesso presidente Andrea Agnelli. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco ci aggiorneremo sulla partita Roma-Fiorentina di Serie A. Intanto i vostri messaggi continuano alla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. Vediamo questo messaggio per esempio su WhatsApp. 349-238-6666 dice questo ascoltatore, ascoltatrice, vediamo se c'è una firma. No, è una vergogna, Israele sta occupando la terra dei palestinesi che faranno la fine degli indiani d'America rinchiusi nelle riserve e il mondo se ne frega, che schifo. In realtà vi dicevo della condanna unanime dell'ONU e dell'Unione Europea oggi che hanno parlato di violazione della legge internazionale. E poi invece Andrea da Udine scrive: ma cara Roberta, noi che seguiamo te, non il Festival di Sanremo, siamo così stonati? No Andrea, non siete assolutamente stonati, ognuno giustamente fa le proprie scelte, però insomma, visto che è una trasmissione questa che sta sull'attualità del giorno, è iniziato Sanremo, è comunque un evento popolare, insomma. Ah, e c'è tra l'altro Tiziano Ferro che sta cominciando a cantare adesso. Scusa Andrea, ma perché non avevo niente da fare. Maggio a Tenco, il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare, mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo, il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. E noi da fare. Io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Bello, bello questo omaggio, poi ci ritorniamo. Adesso viabilità tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci immediatamente insieme, Roberta Giordano con voi, ci eravamo lasciati pochissimo fa con Tiziano Ferro dal Festival di Sanremo, che parte con la prima serata stasera, che ha fatto questo bellissimo omaggio a Luigi Tenco con la canzone Mi sono innamorato di te, devo dire all'altezza, all'altezza. Adesso noi ci occuperemo d'altro e poi ci collegheremo nuovamente ogni tanto con Sanremo e anche con la nostra inviata. Dicevo, nel frattempo vi ricordo quali sono le notizie principali della giornata, come sempre quando ci sono delle pause. Intanto vi ricordo che i vostri messaggi potete continuare a mandarli alla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Dice invece un altro scuola, ma la gente non ha nient'altro da fare invece che ascoltare Sanremo, e l'abbiamo appena detto che comunque è un evento popolare che piace, di cui si discute in negativo o in positivo. La presenza di Albano a Sanremo è rappresentativa della arretratezza culturale del nostro paese, ma forse vuole simboleggiare anche il ritorno del centrodestra al governo, dice un ascoltatore. Ci sono anche i commenti politici su questo argomento. Allora andiamo ai fatti principali della giornata. Regina Raggi indagata anche per Salvatore Romeo, che sarà ascoltato domani, questo per l'indagine che la coinvolge sulle nomine al Campidoglio, e per questo riguarderebbe l'abuso d'ufficio. Allarme spread, il ministro Padoan dice la nostra priorità è la riduzione del debito, e intanto la cancelliera Merkel a proposito dell'Unione Europea a due velocità dice serve una meta comune, no ai club esclusivi. Giovane pestato e violentato in Francia dagli agenti, le banlieue, le periferie in fiamme. Teo però, il ragazzo vittima di queste violenze, lancia un appello e dice basta la guerra, pregate per me. Abbiamo sentito il nostro corrispondente dalla Francia che dice in realtà non è una situazione così tesa come l'era qualche anno fa. Svolta in Marocco, liberi i cittadini di lasciare l'Islam quando vogliono per un'altra fede, per un'altra religione. Finora nei paesi musulmani, anche in Marocco, c'era la pena di morte per apostasia, adesso invece il Marocco lascia liberi le persone di scegliere la religione che vogliono. Gentiloni, oggi presidente del Consiglio, oggi era fra i terremotati, ha detto loro ce la faremo, vi saremo vicini. I sindaci chiedono però una cura shock, dicono non c'è tempo, bisogna agire in fretta. Forte tensione contro Israele, condanna da parte dell'ONU e anche dell'Unione Europea sulla legge di Israele per regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi. E poi si alza il sipario a Sanremo, abbiamo sentito poco fa Tiziano Ferro con questo omaggio a Tenco, la De Filippi conduttrice insieme a Conti alla Febbre a 38, ma c'è senz'altro, e sentiamo Conti, ecco. Entrato adesso, introdurre. Iniziato con qualcosa di straordinario, unico, irripetibile, questa toccante, emozionante ricordo che Tiziano Ferro ha fatto di Luigi Tenco. È il modo migliore per ricordare questo grande artista a 50 anni. Infatti abbiamo detto non male, però adesso ci occupiamo di tutt'altro. Andiamo oltreoceano, c'è il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Ma prima c'è Dario Ricci, perdon Dario, scusami, con tutti questi argomenti. Tenco mi ha, come dire, un po' confusa. Figurati, anch'io ero rimasto incantato, quasi un po' di rammarico per quegli spettatori che all'Olimpico di Roma magari si sono persi questa bella interpretazione di Tiziano Ferro. Olimpico di Roma, che però è il teatro di questo Roma-Fiorentina, che completa la 23esima giornata di Serie A. Siamo poco oltre la mezz'ora, ancora 0-0. C'è stato un paio di occasioni per la Roma con El Shaarawy, bravo Tatarusano in uscita a bloccare l'attaccante giallorosso, e con un tiro uscito di poco di Bruno Perez, ma in precedenza era stato Chiesa per la Fiorentina davvero a sfiorare il vantaggio, il suo pallonetto è stato salvato sulla linea di porta da Fazio. Insomma, vedi, nome che in qualche modo richiama l'atmosfera sanremese di qualche anno fa. Però 35esimo del primo tempo, ancora 0-0 all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. Grazie Dario Ricci, sono costretta a rimandare ancora un attimo Marco Valsania perché è scesa, ma non ho visto se è scesa, mi parevano tre scalini in realtà che ha fatto Maria De Filippi, perché non voleva fare la scalinata, con una grande rosa bianca in mano. Sentiamo cosa dice. Non hai fatto le scale però. Un genere di poche parole. Forse l'ultima sera. No, deve fare le scale però, doveva fare le scale e non l'ha fatto. Forse. Le farai, Forse, ma penso che il Festival di Sanremo rimarrà sempre il Festival di Sanremo anche senza le mie scale. Sì, sono d'accordo, però le scale ci vogliono, dai. Ecco, come questo stai? È per te. Ah, la rosa bianca è per Conti. È per dirti grazie di avermi voluto qua. È per la RAI che va ringraziata. Devo ringraziare anche il mio editore. Certo. E poi, no, una cosa volevo dire. Sì. Abbiamo avuto una settimana di maltempo. Ed è andata bene. Oh. Sì, perché ho pensato questo, che se no rischiavamo di abbronzarci. Tu rischiavi molto di più di me, ma soprattutto... Sembra un po' imbarazzata, anche se insomma è una lunga carriera. Adesso però Marco Valsani, scusa, ritorniamo coi piedi per terra. Marco, le cose più serie, come si dice, caro Marco. Siamo negli Stati Uniti, dove si attende la sentenza della Corte d'Appello sul Muslim Ban, no, voluto da Trump, questo, sì, questo decreto contro il, che prevede un temporaneo bando per immigrati musulmani da 7 paesi islamici, no? Esatto. Siamo, diciamo, un po' al conto alla rovescia verso l'udienza della Corte d'Appello che avverrà alle verso le 6. È in corso verso le 6 ora locale di New York, alle 3 ora locale del Pacifico, cioè di San Francisco, dove la Corte d'Appello ha sede. Quindi siamo ancora a 2:30 in realtà da questa ora di udienza, un'udienza in realtà che verrà condotta al telefono con la partecipazione delle parti, cioè da un lato il governo, l'amministrazione Trump, che chiede lo sblocco del blocco agli immigrati, e dall'altra invece gli stati di Washington e del Minnesota, alleati con altri 16 stati americani e con oltre 100 aziende dell'high tech americano, che invece chiedono che questo divieto resti sospeso, come aveva deciso il giudice di quindi democrata. Bisogna aspettare ancora queste 2 ore qualcosa. Senti, interessante era oggi su New York Times un'ampia pagina che ha ricostruito i legami di Bannon, che è l'uomo più potente accanto a Trump, no? L'uomo della strategia della sua amministrazione, i suoi legami con gli elementi più a destra della Chiesa. Tanto spazio ha dato il New York Times oggi a questa cosa. Sì, diciamo c'è in questi giorni un'attenzione, un tentativo di scavare anche così in questa prima fase in questo suo debutto dell'amministrazione Trump, e anche nel modo di governare che ha il presidente e il suo entourage, che appunto è un modo che lascia che fa discutere, diciamo così, per usare un eufemismo. Ecco, in queste ricostruzioni oggi, per esempio, il New York Times ha dedicato questa ampia inchiesta proprio ai legami di Steve Bannon, grande stratega prima della campagna elettorale, del successo elettorale di Trump, e poi adesso grande stratega anche del suo avvio di amministrazione, con promozione anche nel Consiglio di Sicurezza Nazionale, e comunque, diciamo, suo vero e proprio braccio destro, uno dei pochissimi che è presente sempre anche quando Trump telefona ai leader internazionali. Ecco, Bannon, noto appunto per le sue posizioni molto molto conservatrici, molto di destra, per affermazioni quali appunto quella che il cristianesimo è sotto assedio ed è in una specie di guerra esistenziale nei confronti dell'Islam, e quindi un po' questo scontro un alfiere di questo scontro delle civiltà. Ecco, rivela il New York Times, ha questi stretti legami in realtà con ambienti molto tradizionalisti e così antitetici a Papa Francesco, anche al Vaticano, dove è stato più volte a Roma, ha partecipato a incontri di queste correnti più tradizionaliste, così parallele appunto alla Chiesa Cattolica, ed è ben, è ben visto, è un po' quasi come se questi elementi un po' emarginati da Papa Francesco al Vaticano, ecco, cerchino in Trump e nel suo consigliere, soprattutto Steve Bannon, quasi un ritorno, ecco, all'influenza, al potere. Tra l'altro un certo dissenso serpeggiante, nei confronti di Bergoglio, che si è notato anche con questi manifesti che sono apparsi a Roma contro di lui. Un clima, insomma, piuttosto particolare. Allora, Marco, poi ci dirai, ci aggiorneremo a questo punto domani su quello che succederà, o forse ancora si fa tempo a mezzanotte, esatto, magari nel GR. È possibile, dato che arrivi, anche subito, ogni momento è buono, poi finita l'udienza per la decisione della Corte d'Appello, che è una decisione soprattutto, solo per ricordarlo, quasi tecnica, quella immediata, cioè deve decidere se il giudice di primo grado era nell'ambito dei propri poteri, della propria autorità, quando ha deciso di sospendere il divieto, di Trump, o se ha in qualche modo abusato del suo potere. Chiarissimo. Grazie Marco Valsania da New York. Ciao a Marco. Voi. E adesso parliamo di Siria, perché è un po' che non ci occupiamo di Siria, ma il problema purtroppo non è risolto, e soprattutto quello che è stato finora, che va ricordato, perché in 6 anni di guerra civile i siriani hanno subito veramente crimini di ogni tipo, massacri, torture, bombardamenti, armi chimiche e pare anche violenza sessuale sui bambini, minori che erano accusati di essere vicino all'opposizione o parenti di oppositori, eccetera, hanno subito abusi nell'impunità totale. Tra l'altro oggi c'è una denuncia di Amnesty International che dice che, fra le altre cose, il regime siriano ha impiccato 13.000 civili, quasi tutti civili, insomma, in un carcere particolare della Siria, vicino Damasco, e denuncia Amnesty una politica di sterminio. E per questo allora coinvolgo il portavoce di Amnesty International Italia, che è Riccardo Nuri. Buonasera Nuri. Buonasera. Veramente fa venire i brividi elencare così, anche in modo, diciamo, molto, molto sintetico. Si può immaginare in 6 anni che cosa non sia successo: milioni di persone, migliaia di persone uccise, milioni di persone che sono scappate dalla Siria. E adesso voi parlate anche di questa politica di sterminio in questo carcere in particolare? Sì, ma Said Naya è il luogo peggiore tra i centri di detenzione della Siria, dove si torturava e si uccideva già prima dell'inizio del conflitto nel 2011, ma nei 5 anni successivi quello che ci hanno raccontato ex prigionieri, ex secondini, ex giudici, persone che sono state all'interno di Said Naya, è stata portata avanti una strategia di eliminazione a colpi anche di 50 prigionieri impiccati ogni settimana, che ci ha portato a concludere che potrebbero essere stati messi a morte dal 2011 al 2015 fino a 13.000 prigionieri, come ricordava lei, quasi tutti civili. Questo rapporto fa il paio con un altro rapporto che pubblicammo a ottobre, in cui denunciavamo già il clima di torture, di diniego di cibo, cure mediche, acqua, politiche deumanizzanti. Quel sistema chiamato da Amnesty International un mattatoio umano, che corrisponde a una politica deliberata di sterminio. Tra l'altro, Nuri, se ne parla poco ultimamente, perché poi appunto era intervenuto Putin, altri bombardamenti, non si capiva più quali erano i soggetti in gioco, diciamo così, in questa guerra. Alla fine la situazione dopo il vertice di Astana si è abbastanza stabilizzata, o com'è oggi la situazione in Siria? Ma oggi, proprio oggi, ci sono delle notizie preoccupanti di combattimenti nella zona di Deir ez-Zor, in altre parti, Idlib, con questo modello purtroppo sistematico di bombardamenti anche su obiettivi civili e popolazioni che sono sotto assedio, intrappolate. Quindi la situazione, nonostante un coprifuoco in qualche modo e almeno in alcune parti del paese regga, è assolutamente preoccupante. Aggiungiamo che rimane un problema che ha a che fare proprio con la vita delle persone, la vita oggi, domani, subito, cioè l'accesso privo di ostacoli di beni umanitari. E noi ci preoccupiamo fondamentalmente delle persone che lasciano la Siria e tendiamo a dimenticarci di quelle che possibilmente stanno ancora peggio, cioè quelle che neanche riescono a scappare dalla Siria e che sono sotto assedio, intrappolate alla fame. Non c'è pace, insomma, per i siriani. Tra l'altro, Riccardo Nuri, di tutte queste torture, oltre l'ISIS, ma queste cose, parliamo anche del regime stesso di Assad, no? Sia le impiccagioni, sia i crimini che elencavo prima. Sì, contro noi i ribelli, contro gli oppositori. Abbiamo sempre sostenuto che in questa guerra della Siria non ci sono buoni o cattivi, o meglio, i buoni sono quei pochi che hanno continuato a fare resistenza civile, non violenta, a informare, a denunciare, a soccorrere. Per il resto noi abbiamo, e lo facciamo comodamente dall'Italia, nella maggior parte dei casi, una visione della Siria come di una guerra che si svolga in uno stadio in cui bisogna prendere le parti dell'uno piuttosto che dell'altro, narrazioni filo Assad o filo gruppi armati islamisti che negano ogni responsabilità addossando tutto alla parte avversa. Certo, è una narrazione nemica dei diritti umani, perché in questo modo si fa del negazionismo a seconda della parte per cui si faccia il tifo. È chiaro, purtroppo. Grazie intanto Riccardo Nuri, ricordo portavoce Amnesty International Italia. Grazie e buon lavoro, Nuri. A lei, buonasera. Grazie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, anche se ogni tanto ci colleghiamo con Sanremo, qualcuno è contento, qualcuno meno, vediamo cosa c'è Conti che parla, è sceso Raul Bova adesso, a chi interessasse. Adesso, uno, quando Raul guarda, va sempre oltre la ragazza, no? E la ragazza in questione è lì che dice, ma abbasserà questo sguardo o non l'abbasserà? E forse perché è alto, guarda oltre perché è alto. Adesso vi ricordo, tra pochissimo ci collegheremo con la nostra inviata a Sanremo, però vi ricordo come da prassi le notizie più importanti, intanto per i vostri messaggi sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Allora, allarme spread, il ministro Padoan sottolinea, la nostra priorità è il taglio del debito. Stati Uniti, alta tensione con l'Iran, l'ayatollah Khamenei attacca Trump e dice questo è il vero volto degli Stati Uniti, intanto si attende la decisione della Corte d'Appello sul bando contro gli immigrati musulmani. Siria, la denuncia di Amnesty International, migliaia di impiccati nel carcere mattatoio di Assad. Abbiamo sentito poco fa qui a Effetto Notte il portavoce di Amnesty Riccardo Nuri. Francia, periferie parigine in fiamme per il giovane pestato e violentato dai poliziotti. Medio Oriente, ONU e Unione Europea condannano la decisione di Israele di regolarizzare gli insediamenti nei territori palestinesi parlando di una legge in violazione del diritto internazionale. La svolta del Marocco, chi vuole uscire dall'Islam non rischia la condanna a morte. Il Consiglio Superiore degli Ulema apre alla possibilità in Marocco di conversione ad altre religioni. Russia, Putin depenalizza le violenze domestiche. Il presidente russo ha firmato la legge che declassa i maltrattamenti in famiglia. Roma, nell'inchiesta sulle nomine fatte da Virginia Raggi, indagato anche Salvatore Romeo, nella delibera per la sua nomina, lo stipendio non viene indicato esplicitamente, questo è il presunto abuso contestato a Raggi e Romeo. Sanremo, eccoci qua, sentiamo Raul che parla. Doveva essere qua, non sì, cominciamo. Ok, vabbè, io comunque ti ringrazio. Carlo non voleva, ma io... Cosa vuoi fare? Io avrei un sogno. Mi piacerebbe presentare ufficialmente una canzone. Ora non è che arriva uno, già presenta la canzone. Vabbè, ma... Decide il pubblico. Può presentare il prossimo campione? Grazie. Però vorrei un... Io ti do le indicazioni, ti aiuto. Vicino, ma ti pare che ti butto là allo sbaraglio senza pack? Ma figurati. Sì, esatto. Prego. Come si mette... Allora, il... postura da... gli addominali. Addominali. Bene, ma fuori. Di tre quarti o... No, di... no, va bene, frontale così. Vai con terzo campione in gara. Dopo una lunga gavetta, approda ad Amici nel 2015. E grazie a una voce eccezionale, sfodera sul palco... Conquista il grande pubblico. Pausa. Da quel momento sta leggendo malissimo, è comunque pausa. Sul gobbo. No, non importava che la pausa. Pausa. E questo è il suo battesimo sul palco di Sanremo. Elodie, dov'è? Allora, non volevo disturbare Marta Cagnola, visto che c'era Raul Bova. Marta, ti ho tenuta in questo momento. Allora, così. Sì, ma così l'ho sentito, perché io sono uscita dalla sala stampa, quindi non lo vede qua. Per noi. L'ho sentito. Sì, perché sennò insomma, abbiamo un volume molto alto. Allora, intanto si sta per esibire Elodie, che è una delle mie favorite, ragazzi. Lei è veramente di una bellezza fulminante, molto brava, e il pezzo, secondo me, ha delle grandi chance. Anche lei viene dai talent, no Marta? Da Amici, sì, lei da non Amici, ha vinto perché ha vinto Sergio Silvestre, che comunque è in gara e sentiremo anche lui, ed è un altro dei favoriti. Lei diciamo che è la protesta, tra virgolette, di Emma, ed è proprio brava, proprio oltre a essere veramente incantevole, il pezzo secondo me ha molte chance. Tutta colpa mia, si intitola il pezzo, vogliamo sentire proprio l'inizio, l'intro, sentiamo un attimo. Fosse tutta colpa mia, non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella, nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia. E questa è Elodie, c'è una ascoltatrice che dice: mai seguito Sanremo in vita mia, seguo molto più volentieri il suo programma, cioè il mio, mi dà del lei. Buon lavoro, grazie Chiara. Ma in realtà Sanremo, anche se i detrattori dicono ormai desueto, è un rito stanco, è troppo nazional popolare, alla fine fa sempre parlare di sé, sia per i conduttori, soprattutto in questo caso le canzoni, super ospiti, le polemiche che anche ci sono state, e fa talmente parlare di sé Marta Cagnola che lì non solo ci sono presenti 47 testate da tutto il mondo, ma per la prima volta c'è un settimanale cinese. Tu ti sei confrontata con il cronista o la cronista cinese? Allora, Marta? No, non ho ancora chiacchierato col cinese. Ho incontrato come al solito i tanti corrispondenti dell'est, che sono dell'est Europa, che sono molto molto molto affezionati. E poi quest'anno abbiamo anche un simpaticissimo scozzese che gira scozzese col kilt. Ma io lo conosco già che non ci sia una folata di vento, Accidenti, no? Penso che ci siano tutte le accortezze per impedire incidenti. E allora lui è un affezionato dell'Eurovision, che noi seguiamo tutti gli anni, e del festival europeo, diciamo, e praticamente chi vince Sanremo ha il diritto di andare all'Eurovision, e quindi lui è venuto a vedere Sanremo anche un po' come se fosse una finale italiana del festival europeo, quindi ci abbiamo anche lo scozzese col kilt. Marta, ci ricordi allora abbiamo visto un bellissimo omaggio, abbiamo proprio colto nel momento in cui cantava Tiziano Ferro questo omaggio a te nel 50° della sua morte, no? Mi sono innamorato di te, bellissimo, veramente lacrime. Altri ospiti, Ricky Martin mi pare stasera, Ricky Martin sì, poi i Clean Bandit, uno di quei gruppi che il nome non dice nulla a tanti, ma appena sentirete la canzone direte ah, questi. Poi appunto c'è stato Raul Bova, ci sarà anche la sua compagna Rossio, Ricky Martin, e soprattutto attorno tra le 10 e le 10 e mezza, non sappiamo l'orario preciso, c'è Maurizio Crozza. E quindi chissà se arrivano ancora polemiche, ma insomma qualcosa succede quando arriva Crozza, eh? Canzoni e cantanti, adesso c'è ancora Elodie che sta cantando, c'è un po' la vecchia guardia, no? Come sempre, i giovani, gli 11 big, è vero che sono dati per vincenti Mannoia e Albano? Allora, Albano così così, Mannoia è obiettivamente la super favorita, e infatti lei è molto spaventata perché, come si dice sempre, chi entra Papa perlomeno rischia di uscire cardinale. A proposito di Papa, scusa Marta, ho visto che anche il Vaticano segue il festival, perché c'è il cardinale Ravasi che ha twittato, sai che ormai anche i cardinali e vescovi con Twitter, ha twittato una frase della canzone che canterà la Mannoia, che si intitola Che sia benedetta. La frase è: per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Io che conosco bene il cardinale Ravasi, perché ho l'onore di collaborare con lui, e mi fa piacere dirlo perché per me è veramente un grandissimo onore, so che lui è sinceramente veramente curioso, perché a lui piace conoscere le cose del mondo, piace conoscere anche la cultura popolare, perché sa che da qui passa veramente lo spirito del tempo, non ha nessun pregiudizio, è veramente sinceramente curioso e attento. Marta, tu per chiudere, hai avuto modo di sentire qualcosa prima, dietro le quinte? Che cosa hai captato? Delle canzoni, guarda, noi giornalisti le sentiamo tutte insieme un mese prima, il 20 gennaio le abbiamo ascoltate tutte una volta sola. Poi ovviamente così nei vari incontri con gli artisti abbiamo avuto occasione di conoscere più volte. Poi ieri pomeriggio abbiamo assistito in teatro, nel teatro blindatissimo, alle esibizioni di tutti e 22, quindi degli 11 che canteranno oggi e degli 11 che canteranno domani. Devo dirti, se dovete tenere d'occhio qualcuno, tenete d'occhio moltissimo Francesco Gabbani. Molto. Senti, questo ritorno di Paola Turci, ho visto? Splendida. Roberta ti conquisterà. Splendida. È un inno alla bellezza femminile, di tutte le donne. È un inno al volersi bene. Fatti bella per te. Cioè, devi farti bella per te stessa, ed è, ma guarda, veramente uno dei pezzi che io ho amato di più. Senti, per chiudere, vedo De Filippi, sentiamo cosa dice, vedo con degli occhietti un po' strani, avrà ancora questa febbre a 38. A non dimenticarli, anche quando magari le notizie non ce li fanno ricordare. E quindi facciamo entrare gli eroi, del quotidiano, l'eroe del giorno e l'eroe della notte. Vedo un po' in difficoltà, perché non sta bene Marta, secondo te? Allora, no, io l'ho incontrata, perché lei, per dimostrarci che sta bene, che è in salute, è venuta in sala stampa a sorpresa, attorno alle 18.30, noi eravamo tantissime, perché sai, molti colleghi a quell'ora stanno lavorando, magari tornano in camera d'albergo, così eravamo pochini, lei è venuta a salutarci, a rassicurarci del fatto che sta bene, perché era in camerino e ha detto al suo ufficio stampa, la leggendaria Betty, ma io posso andare a salutare i giornalisti? Le ho detto va bene, e quindi lei è salita semplicemente per dirci tutto sotto controllo, questa sera ci sono, meno si male. Rideva, prendeva in giro l'ufficio stampa, diceva sei tu che hai esagerato e li hai fatti preoccupare. Vedo che avete gli occhi. Adesso vedo sul palco donne e uomini dei vigili del fuoco, delle forze armate, sì, del soccorso, sì, gli alpino, eroi del quotidiano, sì, sì, come sì, diceva, sì, prima, della protezione civile. Benissimo, grazie Marta Cagnola, ci sentiamo domani allora, buon a festival domani, a domani, grazie. Ciao. A voi. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo le notizie, adesso ve le ricordo in pochi secondi più velocemente. Roberta Giordano sempre con voi, ogni tanto alterniamo con Sanremo, con la leggerezza, poi i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Passiamo man mano a vari temi. C'è un ascoltatore che ritorna sulla condanna di oggi dell'ONU e dell'Unione Europea nei confronti di Israele per questa legge che intende regolarizzare gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi, e dice questo messaggio: inutile condannare Israele per l'occupazione dei territori palestinesi. Israele si fermerà quando realizzerà la Grande Israele. Questo è un dramma che purtroppo non avrà fine. Nessuno è capace di fermare Israele e il mondo occidentale a dover porre un limite, ma non ha le forze per farlo. E insomma, comunque, sicuramente c'è una grossa tensione internazionale in questo momento. Però leggevo una cosa anche interessante, che bene, secondo un sondaggio, il 53% degli israeliani ebrei non apprezza questa decisione del primo ministro Netanyahu, quindi c'è una buona parte dei cittadini, degli israeliani, che in realtà non è d'accordo. Ora, tra pochissimo, lo spazio europeo, le notizie, ve le ricordo: Virginia Raggi indagata anche per Salvatore Romeo, suo ex capo di segreteria, che sarà ascoltato domani, e poi l'allarme sullo spread del ministro Padoan, che dice noi abbiamo come priorità la riduzione del debito, il nostro obiettivo centrale. Il giovane pestato e violentato dagli agenti e dai poliziotti in Francia, Baglieu in fiamme, le periferie di Parigi. Matteo, il ragazzo vittima delle violenze, lancia un appello e dice basta la guerra, pregate per me. Svolta in Marocco, liberi i cittadini di lasciare l'Islam, la religione dell'Islam, per un'altra fede, una rivoluzione appunto nel paese musulmano. Finora era prevista la pena di morte per apostasia come negli altri paesi a religione islamica. Gentiloni oggi, Presidente del Consiglio, era fra i terremotati, ce la faremo, ha detto vi saremo vicini. I sindaci hanno chiesto una cura shock, hanno detto perché non c'è tempo e dobbiamo agire in fretta. Forte tensione contro Israele dopo la legge sugli insediamenti, condanna dell'ONU e anche dell'Unione Europea, ne abbiamo appena parlato. E poi si alza il sipario a Sanremo, si è alzato ormai, abbiamo visto sia i conduttori Conti e De Filippi, e anche l'omaggio di Tiziano Ferro a Tenco con questa bellissima riedizione di Mi sono innamorato di te. Adesso spazio europeo. Europa 24 notte. E in questo spazio europeo parliamo di una fiction olandese che racconta l'Unione Europea, che già sta facendo molto discutere. Quella che sentite in sottofondo è la sigla della serie TV olandese Brussels, come si pronuncia in lingua originale. È stata definita la versione europea di House of Cards, una delle più celebri serie TV Netflix sulla politica americana, con uno spietato Kevin Spacey nei panni di un esponente democratico senza scrupoli, pronto a tutto pur di arrivare sul gradino più alto del potere, la Casa Bianca. In Bruxelles, invece, ad essere raccontati sono il torbido, gli intrighi e i giochi di potere di Bruxelles, di fatto capitale dell'Unione Europea. Il racconto parte dall'arrivo in città della responsabile di una compagnia petrolifera olandese che tesse la sua trama ai piani più alti della Commissione Europea per far andare in porto il proprio affare. Viene ricevuta anche dal presidente dell'Unione Jean-Marie con la passione per il buon vino, per molti un riferimento fin troppo esplicito alla realtà, e cioè a Juncker, che di nome fa Jean-Claude. A complicare le cose, per però arriva in città un magnate russo disposto a tutto pur di soffiare l'affare petrolifero alla rivale olandese. Normale concorrenza, se non fosse che i due condividono un grande segreto frutto del loro passato da amanti. Da queste premesse parte la serie prodotta da Endemol Shine e trasmessa dallo scorso gennaio in Olanda dal canale KPN. La versione originale è ovviamente in lingua olandese, ma le scene spaziano dal francese all'inglese, proprio come nella Bruxelles dell'Eurozona, abitata da gente arrivata da ogni angolo d'Europa. Una delle nostre ambizioni era di dare alla città di Bruxelles un ruolo da protagonista nella serie, non solo come luogo, spiega il regista Arno Dirix. Uno degli argomenti trattati è anche il terrorismo, ed eccoci lì, al secondo giorno di riprese, sentire le sirene. Era il giorno dell'attacco all'aeroporto di Zaventem, ha avuto un grosso impatto su di noi, ma abbiamo continuato. House of Cards parla solo dei retroscena della politica statunitense. La nostra serie copre tutto e molto di più. Andiamo fino all'Afghanistan, in Tunisia, tutto il mondo ha una sua parte e Bruxelles è il centro dell'Europa, conclude il regista in un'intervista televisiva. In Bruxelles ci sono gli intrighi della politica internazionale, le pressioni delle lobby, gli amori e i tradimenti tra europarlamentari e faccendieri, la questione migranti e il terrorismo. 126 i personaggi della serie interpretati da attori provenienti da 5 diversi paesi. Per il momento non si hanno notizie di una sua distribuzione internazionale, ma per chi volesse cimentarsi, la serie si può trovare online sul sito della rete olandese KPN. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci insieme, proseguiamo allora. C'è Emanuele, a volte messaggi di ascoltatori, non so, abbiamo appena parlato poco fa con il portavoce di Amnesty International dei massacri, dei bombardamenti, delle torture, delle violenze sessuali anche sulle bambine e i bambini in Siria, e ha detto che non ci sono né buoni né cattivi purtroppo in Siria. Abbiamo visto tutti i soggetti che sono intervenuti sempre a danno dei civili. Emanuele dice, ah, ecco, sono calcoli presunti, Amnesty deve denigrare il governo del presidente legittimo Assad per statuto, abbiamo capito. Emanuele, boh, non so io da dove vengono queste considerazioni. Adesso invece alleggeriamoci con il nostro Dario Ricci. Caro Dario. Eccomi. Intanto come prosegue la partita di Serie A Roma-Fiorentina? C'è la Roma in vantaggio. Roma in vantaggio quando siamo intorno alla metà del secondo tempo, anzi no, è iniziato sì, sostanzialmente da poco, intorno al 50esimo. E Roma in vantaggio per 1-0 grazie alla rete nel finale del primo parziale di Edin Dzeko, quest'anno davvero centravanti ritrovato dei giallorossi, bello l'assist in profondità di De Rossi, bravo Dzeko a farsi trovare proprio sul filo del fuorigioco, ma in posizione assolutamente regolare, a controllare di petto e a battere con un bel destro in diagonale Tatarusano, il portiere della Fiorentina. Quindi Roma che in questo momento rimane nella scia della Juventus, che domani sarà in campo per recuperare la sfida col Crotone in Calabria. E a proposito della Roma, Dario, sì, c'è questa polemica sullo stadio. In realtà per oggi c'è stato un incontro tra i vertici del Campidoglio e i vertici della Roma. Mi sembra che ci sia stato un passo avanti. Sì, direi che c'è stato un passo avanti, perché c'è stato questo vertice appunto tra gli esponenti del club e del comune negli uffici dell'assessore all'urbanistica Berdini e il vice sindaco Bergamo. Ricordiamo Roma, giunta pentastellata, ogni tanto un po' didascalico ricordarlo, ma dobbiamo farlo. Finora c'erano state fumate nere o giù di lì, adesso quantomeno la fumata è stata grigia, perché tutti si sono dichiarati possibilisti e addirittura molto ottimisti. Il problema di fatto è la cubatura dell'impianto, perché è ovvio che la Roma vorrebbe realizzare un impianto con annessi servizi, centro commerciale, ristorante eccetera eccetera, un progetto molto più spartano e lineare è quello auspicato dalla giunta capitolina. Staremo a vedere. Di fatto, mia piccola postilla, è chiaro che il percorso che si sta facendo, Roberta, è anche figlio del no alle Olimpiadi. Diciamo che un doppio no suonerebbe abbastanza strano in un momento in cui magari la giunta non è sulle prime pagine proprio per i risultati finora conseguiti. Anche il no allo stadio della Roma potrebbe in qualche modo alterare ancora di più il rapporto tra la sindaca Raggi e la città. però insomma, sono possibilisti, stanno facendo appunto delle valutazioni di tipo tecnico e anche per la sicurezza, no? Ovviamente, a parte dice la volumetria che dicevi tu. Beh sì, però è chiaro che quelle sono le cose in primis, diciamo che ha poco senso valutare la sicurezza, cioè la sicurezza dell'impianto, forse credo tu alluda, perché poi la sicurezza di uno stadio lo fanno le persone che ci stanno dentro, e quindi può essere anche lo stadio più bello del mondo, ma dipende poi chi ci metti dentro, e quello è tutto un altro paio di maniche. Si intendeva veramente anche la viabilità intorno. Comunque vedremo nei prossimi giorni che strada prenderà questo stadio, caro Dario, grazie a te. Dario Ricci, e c'è questo ascoltatore che scrive, Tiziano Ferro che canta in come l'assa lontana dall'amarezza stridente dell'espressività di Tenco, insomma de gustibus, chiaramente Tenco era Tenco. A tra poco.